It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, Kappa e Drago discettano di evoluzionismo. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Perché secondo me c'è la promiscuità. Sta zitto un attimo, che voglio sentire cosa dice. Manco. Ah sì, Drago. Credi? Dice di lineare Verstärkung. Poi sembrava che dicesse Thelma e Louise, ma di lineare Verstärkung Thelma e Louise. Secondo me invece ha senso. Ha senso? Assolutamente. Ah, perché c'è una promiscuità dei polli, capito? Le galline sono tante, il gallo è uno solo, succede sempre un po' di... Vabbè, però tra i polli, poi i maschi e le femmine bisogna vedere, oh, magari no, si separano. Zitto un attimo. Zitto, io non riesco a star zitto. Comunque è tedesco e tedesco. Tedesco e tedesco. Invece Darwin era inglese. Chi? Ma come chi? Darwin. Ah, Charles Darwin, il padre dell'evoluzionismo. Sì, anche se non mi fai la didascalia vado bene lo stesso. Stavo dicendo Darwin. No, non è vero, bisogna essere chiari. Chiari e distinti, lo diceva sempre Immanuel Kant, filosofo tedesco, padre dell'idealismo. Hai finito? Cosa? Di dire delle cose. Ma guarda che il punto è proprio questo, K. Ah. Bisogna evitare di essere oscuri ed elitari. Se tu dici Darwin e dai per scontato che tutti sappiano chi è Darwin, pecchi di superficialità. Ma di pazienza. Tutti chi? Tu lo sai tutti. Chi è Darwin? No, tutti. La chiarezza impone che dopo aver citato un nome qualsiasi, anche popolare, anche conosciuto, si aggiunga un minimo di spiegazione. Perché guarda che in America perfino i giornalisti più importanti si abbassano a scrivere cose come George W. Bush, il presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato che eccetera eccetera. Vabbè, allora se io devo parlare di Monica Lewinsky, non so, sono a un pranzo di lavoro, devo essere chiaro. E dico Monica Lewinsky e poi devo descrivere quello che ha fatto la Lewinsky a Clinton. No, a Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti. Devo descrivere quello che Monica Lewinsky ha fatto a Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti d'America? Non lo so. Non è una cosa da dirsi a pranzo, Drago. Dovrei scadere nello scurrile. Non è meglio dire, non so, Monica Lewinsky e bom, e lasci intendere quello che tutti sanno. Beh, ci sono modi per descrivere la Lewinsky che evitano elegantemente questo argomento scabroso, no? Quindi... Ah sì, per esempio? Per esempio, Monica Lewinsky, quella del caso Lewinsky. Vabbè, ma così cosa spieghi? Vabbè, cominciano a capire. Non so, come dire John Smith, quello del caso John Smith. Se non sai chi è John Smith, come fai a sapere del caso John Smith? Vabbè, allora puoi dire Monica Lewinsky, l'amante di Bill Clinton quando era presidente degli Stati Uniti. Ecco, così sei stato chiaro e perfettamente a modo, no? Vabbè. E adesso dimmi di Darwin. Di chi? Di Charles Darwin, il padre dell'evoluzionismo. Ah sì, scusa, stavo pensando alla Lewinsky. It is later than you think. Il pollo di Pollock, nel senso di Jackson, abita nascosto nel dipinto blu. Il pollo di Pollock, nel senso di Sydney, vive mascherato nei tre giorni del condor. Il pollo con l'Apollo, nel senso di maglietta, è fratello di Licia, attore pure lui. Il pollo sull'Apollo, nel senso di Volkswagen, è appeso nell'unotto della macchina del popolo. Siamo in ogni angolo del mondo. Intanto, nel torbido mondo della notte. Sono 30 anni che vado a letto all'alba. Comincio a pensare che siano gli orari del divertimento a regolarsi sui miei bioritmi. Se per una volta decidessi di usare la notte per dormire invece che per fatturare, forse la musica si attutirebbe e l'alcol evaporerebbe dai bicchieri. Dopo di me, la noia. E invece eccomi qui, come sempre, a cavallo della mezzanotte, a sorvegliare clienti, dipendenti e soprattutto a sorvegliare i sorveglianti. Mi fa ancora effetto girare la chiave nel cancello alle 6 di sera e darle un'altra mandata 12 ore dopo, con un 40-60 mila euro di più in tasca. Una volta, parlando con un comico famoso che viene qui spesso a scroccarmi gin tonica e cubiste, ho scoperto che prima di cominciare a lavorare tutte e due recitiamo lo stesso mantra di ansia paranoide. E se stasera crollasse ogni cosa? E se stasera scoprissero che è tutto un bluff e che io non valgo niente? Perché prima o poi lo scopriranno, lo so, e la caduta mi farà malissimo. E invece non succede mai niente. Solo che divento ogni notte più ricco. Ma si fa l'abitudine anche a quello. Da quando mi sono ingrandito e ho smesso di occuparmi direttamente di qualche aspetto dei miei locali, la cassa, la gestione artistica, i fornitori, anch'io, come quel comico, faccio fatica a dire con precisione in che cosa consista il mio lavoro. Forse è per questo che guadagno tanto. Chi è un proprietario di discoteche? Un imprenditore di serie B? Il frontman di una piccola cosa criminale? Un barista formato gigante? Non so, ma di certo so cosa farò da qui alle 6 del mattino di tutte le prossime notti della mia vita. Aspetterò l'alba rigirandomi tra le mani la chiave di un cancello e una domanda da comico ansioso. Oh my goodness! What's the matter? It's midnight! Charles Darwin, il padre dell'evoluzionismo, bravo, grazie, diceva che le varie qualità di colombi presenti nel pianeta derivano probabilmente da una qualità di colombo ben precisa, la colomba livia o piccione terraiolo. Bene, questo è molto interessante, passiamo oltre. Sono monogami. Chi? I piccioni? Sì. Ah. Capito, quindi anche se chiudi 5 coppie di piccioni in una gabbia, ognuno si accoppierà soltanto con sua moglie. Quindi non puoi fare una dark room di piccione. Non lo so, se vuoi ci puoi provare, bravo. Comunque, questo permette di studiare a fondo la genetica dei piccioni, perché i figli hanno sempre gli stessi due genitori. Mica come gli altri animali che si ammucchiano e si mischiano senza capirci niente, capito? Sì, uomini e donne compresi. Parla per te. Pronto? Pronto? Ciao Marco, sono Monica. Ciao Monica, c'è Alice? Alice non c'è. Ah, non c'è? Torna tra 2 settimane. Ah, ho capito. No, io volevo soltanto ringraziarla per l'altra notte. Vabbè, glielo dico, se vuoi ti do il suo telefonino. Ah, allora, sì. Allora, 347-11-116-19. Beh, grazie allora. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Fabbrica di polli.